meglio stare bene, meglio stare buoni, meglio stare tondi invece di graffiarsi lentamente, moralmente, poi trovarsi sempre qui. Meglio stare in piedi, meglio stare nudi, meglio stare sempre su di te, capire che sei stanca, umanamente onesta, e che in fondo girano anche a te. Dimmi, dimmi cos'è questo elemento naturale che mi lega a te e che mi fa intorno a me.